Imparo lo Zohar con Rabbi Michael ben Pesach Pornar. Parte terza, lezione 26. Ciò che è scritto nello Zohar è così profondo. Non ho parole da esprimere perché è così profondo. I segreti scritti in questo libro per molti sono così sconosciuti. Prima di iniziare a leggere, concentrati. Sii serio mentre leggi. Apri te stesso, così le parole possono fare incisioni. Non essere sconvolto se non capisci. Da me comprendo anche un po', ma mi apro perché so che Baal Sulam ci porterà con sé e gradualmente rivelerà i segreti per me, per te, per chiunque. Lui, Baal Sulam, lo fa lentamente, vuole che noi assaggiamo e io lo faccio anche più lentamente perché so quanto è difficile. Quindi concentrati, prendi le parole dentro e senti il sapore delle parole. È così magnifico ciò che è scritto qui, perciò renditi minuscolo dall'interno. Non usare la tua testa, il tuo intelletto, perché non c'è comprensione. Chiaro? Per questo momento lascia il tuo intelletto per quello che è. E quando chiudi il libro, riprendi il tuo intelletto, non un secondo prima. Solo dopo aver chiuso il libro, apri il tuo intelletto e se puoi leggere in questo modo, sai che la salvezza è vicina. L'ultima volta abbiamo concluso con la supplica della lettera Tav. Lei è l'ultima lettera e con tutte le sue qualità disse a lui: usami per creare il mondo, e ha anche dato un motivo, perché sono l'ultima lettera della parola Emet, verità, e verità è il tuo sigillo, il sigillo del re, ed egli sigilla con verità. E il creatore le rispose dicendo: sei bellissima, sei stupefacente, ma non posso creare il mondo con te perché non sei adatta. Leggi attentamente e prendi queste parole perché sono così fantastiche. Tutte le risposte sono qui. Il creatore le disse: non posso creare il mondo con te perché sei anche l'ultima lettera della parola Mavet, morte. Non posso creare il mondo con ciò che porta morte. Questo è un accenno che il mondo deve essere creato con ciò che porta vita, di dare sostanza alla vita. Agli occhi del creatore deve essere qualcuno che non ha la morte. Chiaro? Il creatore stesso ha dato la risposta e il motivo perché non poteva creare il mondo con lei. E ora Baal Sulam ci dà un'ulteriore spiegazione. Continuiamo a pagina 33, la spiegazione di Asulam, il secondo paragrafo, la colonna di destra, il paragrafo 23, la 24esima frase. Spiegazione delle parole. Nel momento in cui inizia a indagare Zon, che sono chiamati mondo, per crearli, inserisce tutte le lettere di Zon di fronte a Kadosh Baruch Hu. Inizia con Tav, che lei è l'ultima di tutte le lettere, e lui finisce con Aleph, che è la prima di tutte le lettere. E il motivo per cui sono venute dall'ultimo al primo e non nell'ordine di Aleph Bet, è perché sono entrati nel segreto di Man, che al loro interno sono stati classificati nel segreto di Tav, Shin, Resh, Kuf, eccetera. Spiegazioni di parole. Usa un mix di entrambe le lingue, aramaico ed ebraico. La traduzione che faccio non è corretta, ma devi capire. È più importante che senti l'energia oltre le parole. E più tardi, quando lo leggi per la quarta o quinta volta, la comprensione arriverà. Ma per ora senti l'energia delle parole, perché quello è abbastanza. L'intero significato è che senti la santità dentro di te. Da dove proviene questa santità? La raggiungi con uno dei sistemi di credenze? Posso dire con tutta sincerità che non lo troverai lì. Solo lo Zohar può aprire per te la tua santità, una santità che è già dentro di te. Pertanto non è così male se non capisci la lingua né il contenuto. L'importante è che ti renda ricevibile, così le parole possono fare incisioni. È chiaro? Gradualmente le incisioni andranno sempre più in profondità e quelle incisioni ti porteranno alla tua santità. Non è solo una storia. Più a lungo lo fai e più spesso leggi, questo noterai che ogni lettera ti dà forza, perché vedi il significato di ogni lettera e tuttavia sei consapevole che non anneghi nelle parole. Sii attivo e concentrato da una parte e lascia andare ciò che leggi. Se puoi farlo, ogni parola ebraica e aramaica ti darà energia, forza. Non focalizzarti sulla morale. Sii consapevole che né lo Zohar né la Torah parlano di moralità. Tutte le nazioni hanno ricevuto i loro sistemi di credenza tramite i loro angeli e i loro angeli potevano solo spiegarglielo come una parabola, altrimenti come potevano capire? Mentre leggi questo noterai che la tua intuizione cresce e va più in alto di qualsiasi moralità. Lo Zohar ti porterà al livello in cui non esistono peccati. Questo è possibile? Sì. Lo Zohar può fare questo, ma devi concentrarti, aprirti e poi lasciare andare anche la comprensione terrena. Se non riesci a lasciare andare la tua comprensione terrena, c'è una libera scelta e puoi scegliere di chiudere il libro. Ma se puoi aprirti, sii ricettivo alle parole dello Zohar. Sappi che lo Zohar ti porterà al livello in cui non si può più peccare, ma devi prestare attenzione ad ogni lettera. Nel momento in cui lui, il creatore Binah, ha iniziato a indagare su Zon, che sono chiamati mondo. Zon è Zerampin, Zerampin è Nukva e sono detti mondo. I sette sfirot più bassi di Azilut sono chiamati mondo. La ragione di ciò è perché lei ha già sei estremità, sopra e sotto, e quello è il mondo e in fondo c'è la Nukva. Tutto questo è venuto da Binah Keter, Kokma e Binah di Azilut. Nel principio Zerampin e Nukva erano nella testa, vale a dire che non erano stati rilasciati, ma che significava solo che il loro potenziale era lì. Puoi confrontarlo con il seme dell'uomo che è ancora nella testa, ma non è ancora uscito. Qualcosa doveva essere risvegliato per farli apparire. Qui dice, nel momento in cui Binah iniziò a sistemare Zon, sta significando di far emergere il bene e portare di sopra le scintille sante, di crearle per dare forma, un corpo. Doveva venire fuori. Ciò che viene a noi viene dal superiore. Il superiore dà nascita all'inferiore. La forza di Binah insieme con Abba, il padre, lei dà alla nascita l'inferiore. Due punti di forza, ossia Zerampin e Nukva. Lui dice che nel tempo in cui il creatore era impegnato a creare Zon, che sono chiamati mondo, questo era un tempo. Noi ci teniamo impegnati con l'esistenza del mondo. Qual è l'esistenza del mondo? Il mondo è stato creato in 7 giorni. 6 giorni con la forza di Zerampin e il 7° giorno con la forza di Nukva. Questi sono i 7 giorni della creazione del mondo, la creazione di Zerampin e Nukva. Lui dice che nel principio erano venute le lettere di Zon prima che Akadosh Baruch Hu iniziasse con Tav. Lei è l'ultima lettera di tutte le lettere. Per prima la lettera Tav è venuta prima da Akadosh Baruch Hu, che sta significando che era il momento quando vennero in esistenza le sue capacità, i suoi caratteri, perché era ancora nel potenziale. E si è conclusa con Aleph, lei è la prima di tutte le lettere. Quindi la sequenza delle lettere è stata dall'ultima alla prima. E questo è strano, ma ce lo spiegherà. E la sua spiegazione è così profonda, ma così profonda. E l'aspetto dell'arrivo in questa sequenza, dalla fine alla prima lettera, e non nella sequenza dell'alfabeto, che si intende prima Aleph, seguito da Bet, eccetera. Qual è stata la ragione per cui sono venuti in questa sequenza prima l'ultima lettera e Aleph alla fine, che è la prima lettera dell'alfabeto? Lui spiega la ragione di questo e perché sono venuti nel segreto di Man. E Man è preghiera, richiesta. Cosa significa questo? Come forse sai, è l'inferiore che solleva la sua preghiera di sopra. Significa con la sua preghiera lui può venire tra suo padre e sua madre, tra Kokma e Binah. In questo vedi anche che è buono avere carenza, perché ora puoi andare dai tuoi genitori. E cosa succede? Tua madre guarda tuo padre ed è tuo padre che dà forza. Non pensare che sia la sua forza. Lui anche va al superiore, fino a quando la richiesta arriva a Ein Sof. E Ein Sof dà la forza. Questo succede anche nel nostro mondo materiale. Un bambino va dalla mamma e la mamma va dal papà. E lui dà i soldi perché vuole rendere felice sua moglie. E sua moglie li spende in quello che il bambino ha bisogno. Il più basso chiede, l'aspetto femminile, e da sopra arriva la risposta, l'aspetto maschile. Questo è il significato delle parole man e mad. Acque femminili e acque maschili. Le acque femminili sono da sotto a sopra e le acque maschili sono da sopra a sotto. Chiaro? Prima c'è la lettera Tav, l'ultima lettera, che significa la lettera più bassa che dà una richiesta, e richiesta è Man. Qual è il modo migliore di Man per la richiesta? Il modo migliore per fare una richiesta è con parole delicate e piacevoli, e non pensare che questo è egoistico o altro. lei dà il meglio di lei, e così devi farlo tu. Tutte le lettere arrivarono al creatore, a Binah come Man. È possibile che una lettera di Zon possa apparire davanti a Binah, il creatore? Non sono inferiori? Non sono i figli di Binah? Prendiamo ad esempio il giorno dell'espiazione. Cosa fanno gli ebrei durante quel giorno e il giorno dopo? Quali sono le loro leggi? E tutto quello indica di stare davanti al creatore nel modo più puro. Com'è difficile ciò! Un giorno, solo per 24 ore, portano man, raccolgono le forze in loro stessi e portano qualsiasi cosa di sopra. Questa è l'arte della preghiera, 5 preghiere che devono fare e, naturalmente, 5 preghiere corrispondono a 5 sfirot e devono lavorare attraverso. Anche questo è man. È chiaro cos'è man? Tutti i suoi punti di forza, buoni o cattivi, tutto ciò che è dentro devi portarli a Binah. E questo è quello che fecero le lettere quando apparvero davanti al creatore. Prima venne la lettera Tav e poi la successiva, e tutte loro diedero il loro man. E dentro la preghiera ascendevano a Binah tutte le lettere, venivano invertite nel segreto di Tav, Shin, Resh, Kuf, eccetera. Quest'ultima iniziò e così via la prima lettera Aleph, che è l'ultima. Questo è man, è per dire da sotto a sopra in modo inverso. Tra un momento ce lo spiegherà. E la posizione di Aleph, Bet, Gimel è solo nel segreto di Mad, il quale è da sopra a sotto, ma Man è in ordine inverso, considerando Mad, il quale è da sotto a sopra. E la posizione di Aleph, Bet, Gimel è il segreto della classificazione da sopra a sotto, che è chiamato Mad, le acque maschili. Mad è da sopra a sotto proprio come la luce che viene dall'alto al basso, come una risposta per la preghiera. Una preghiera va da sotto a sopra e questo è ciò che si intende con la sequenza inversa. Questo è molto interessante e una volta che lo sai e lo comprendi, questo ti dà informazioni su un nome. Ad esempio, quando le lettere inferiori sono all'inizio di un nome, seguito da lettere superiori, puoi vedere la destinazione dell'anima. E quando il nome inizia con le lettere superiori, seguite dalle lettere inferiori, puoi vedere quali punti di forza stanno lavorando all'interno di quella persona. Naturalmente dall'alto al basso è il superiore. Ad esempio un nome inizia con la quinta lettera Ei, seguita da Vav o Zain. Questo è molto potente, un potere maschile che è costruttivo. Quando un nome va dal basso all'alto è una combinazione femminile. In questo vedi che tutte le forze e i punti di forza sono nascoste all'interno, quindi crea un contatto con la tua anima, con il tuo stesso essere e vedrai come funziona l'universo. Come sopra, così sotto. Qui Sulam ci dice che le acque maschili sono da sopra a sotto. E quella è la risposta per la preghiera. Qual è il significato di questo? Ci sono 5 sfirot e mostrano i punti di forza dell'universo. I cinque sfirot possono essere visualizzati anche in lettere. Ad esempio, se prendi i nomi del creatore, sono tutti rivestimenti diversi. È per dire visioni diverse di forze e punti di forza dentro l'universo. Un buon confronto è ad esempio un architetto che ha in mente un progetto meraviglioso. Sa esattamente come dovrebbe essere costruito e colui che sa leggere il suo disegno vede cosa intendeva l'architetto. Lo stesso con la musica. Nel momento in cui un direttore pone i suoi occhi sullo spartito musicale, sente la musica. Lo stesso con la Kabbalah. Si può aprire il libro dello Zohar e avere piena comprensione. Lo stesso con le lettere. Nel momento in cui qualcuno ascolta o vede la lettera Aleph, lui può costruire il mondo. Sa già quale forza è coinvolta. Come mai? Ciò che hanno in comune è che entrano in contatto con il loro sé superiore. Si connettono con la forza universale. È chiaro? Lo Zohar è vasto, pertanto connettiti con tutti gli aspetti che sono nello Zohar. E quando lo fai allo stesso tempo, viene fatta una connessione con gli aspetti che sono tuoi. Ciò è la profondità dello Zohar. Questa è la profondità dello Zohar. Ma Man, il loro ordine, è invertito considerando Mad. Significa che Man è dal basso verso l'alto e Mad, la risposta, è dall'alto verso il basso. E vedi che la spiegazione di queste lettere è più profonda di tutte le profondità, e poiché c'è bisogno di qualche spiegazione, ti darò una breve spiegazione per spiegare questo. E vedi la spiegazione di queste lettere. Ciò che significano le lettere sono i punti di forza dell'universo. Posso stare davanti a qualcosa di maestoso, ad esempio le cascate del Niagara, e naturalmente posso sentire la forza dell'universo. Ma le lettere? Non sento nulla, potresti dire. Come possono le lettere riflettere la forza dell'universo? Sii paziente e leggi quello che sta per dire. È più profondo di tutte le profondità. E poiché c'è bisogno di qualche spiegazione, ti darò una breve spiegazione per spiegarlo. Cerca di spiegarci qualcosa di meraviglioso, quindi concentrati, svuota la testa e per dire lascia il tuo pensiero per quello che è, perché non c'è comprensione di quanto pensi, solo sentire ed esperienza. Lascia che ti accada. E cioè, perché la creazione del mondo significa che lei esiste e può stare in questo modo, che il mondo può stare ed essere permanente con l'intenzione di completare ciò che è stato creato. E sai già che uno è stato fatto opposto a quello di Elohim. E cioè, perché la creazione del mondo significa che lei esiste e può stare in questo modo che il mondo può restare ed essere permanente. Durante la creazione dei mondi, alcune misure erano state prese, così il mondo poteva essere permanente, con l'intenzione di completare ciò che è stato creato. Deve soddisfare i requisiti per il quale è stato creato. La creazione deve resistere e rispondere alla causa per cui è stata creata, proprio come si fa una macchina. Devi sapere se è una buona macchina quella può girare e funzionare per molti anni. E sai già, concentrati, che uno è fatto di fronte a quello di Elohim. Cosa significa questo? Devi sapere che c'è dualità, come il giorno e la notte, bene e male, eccetera. In questo modo il Creatore ha creato il mondo. Capito? Ciò significa che, opposto ad ogni forza che è nel divino, HaKadosh Baruch Hu ha creato una forza che era dall'altro lato opposta al divino. Così come ci sono quattro mondi, Abiyah del divino, così ci sono anche quattro mondi di Abiyah di forze impure opposte e quindi nel mondo. Asiya uno non può notare o sapere se qualcuno sta lavorando per Elohim o se non sta lavorando per Elohim. Ciò significa che non c'è assolutamente alcuna indagine tra il divino e le forze impure. E quindi è molto difficile. Come è possibile rimanere eretti? Poiché come facciamo a sapere la separazione tra il bene e il male, tra ciò che è divino e ciò che è impuro? Questo significa che, opposto a ogni forza che è nel divino, HaKadosh Baruch Hu ha creato una forza che era sull'altro lato opposta al divino. Il Creatore creò la dualità, uno opposto all'altro. Entrambi i lati sono creati dal Creatore, significa che c'è la divinità creata dal Creatore e c'è l'opposto della divinità creata dal Creatore, che significa anche dualità. Questo è così importante. Devi sapere che c'è dualità e fino all'arrivo del Messia la dualità farà parte della tua vita. Non pensare che puoi liberarti della dualità. La dualità è creata dal Creatore e devi affrontarla. Significa che hai la scelta di quale lato vuoi seguire. Proprio come ci sono quattro mondi Abiyah del divino, così ci sono anche quattro mondi di Abiyah delle forze impure opposte. Perché? Lo vedremo. Il Creatore ha creato due sistemi di poteri, ma l'uomo sceglie per la situazione facile. L'uomo vuole il Nirvana, vuole soluzioni immediate, ma il Creatore sa che abbiamo bisogno di questi due punti di forza. È necessario, altrimenti l'uomo non farebbe nulla. Tutte le invenzioni provengono da questa forza, perché se l'uomo vivesse davvero nel Nirvana non accadrebbe nulla. Ecco perché siamo messi tra queste due forze. Vediamo cosa ci sta dicendo. E quindi nel mondo Asiya, questo è il mondo più basso, dove l'atto di fare è il principale, e noi siamo un pezzo di questo mondo. Non si può notare o sapere se qualcuno sta lavorando per Elohim o se non sta lavorando per Elohim. Il mondo Asiya è il mondo più basso e ora ci insegna che in questo mondo non si può vedere se qualcuno sta lavorando per lui o no. Dall'esterno siamo tutti uguali e nell'esterno non possiamo vedere chi è chi. È chiaro? In questo vedi che è molto importante lasciare andare il pregiudizio che abbiamo per gli altri esseri. Tutti noi siamo parte di questo mondo basso di Asiya. quindi nessuno può vedere se un'altra persona appartiene alla forza pura o impura. Si può andare per 50 anni in una sinagoga o in una chiesa, ma non si può mai conoscere i suoi pensieri interiori. Chiaro? Come ho detto prima, il nostro mondo è parte del mondo Asiya, quindi non è dato a nessuno di vedere l'interno, perché c'è così tanto male, così tanto offuscamento. L'equilibrio è 10 contro 90 ed è difficile da superare. In un certo modo è impossibile ed è quello che conferma qui. Dice che è impossibile sapere se qualcuno è un lavoratore per il creatore o no. Quindi è così importante lasciare andare il pregiudizio che hai. Continua con la spiegazione ed è buono, concentrati perché le sue parole sono molto profonde. Quello significa che nel mondo Asiya e noi siamo parte di questo mondo. Non c'è assolutamente alcuna indagine tra il divino e le forze impure. Assolutamente no. Nessuno può vedere in questo mondo se uno sta lavorando per il divino o se sta lavorando per il diavolo. Se poi metti questo nel tuo cuore, sarà più facile lasciare andare il tuo pregiudizio. E quindi è molto difficile, come è possibile rimanere eretti. Significa se non si riesce a discernere quale sia il potere al lavoro e perché e come possiamo sapere della separazione tra bene e male, se questo è così difficile da vedere, come possiamo discernere il bene e il male? Tra quello che è divino e quello che è impuro, come possiamo farlo? Tuttavia c'è un modo molto profondo per spiegare questo, e cioè, poiché l'altro è l'Aher, El-Aher, l'altro Hashem, è castrato e non ha discendenza, e pertanto coloro che cadono entreranno nei gradi dell'impuro di Abia, i loro pozzi si asciugano e non hanno frutti che hanno la forza di vivere e non hanno benedizione, e si spezzano e cadranno dalla sorgente di vita. Ed opposti a loro sono quelli che si attaccano al divino e diventano degni delle benedizioni per mezzo delle loro azioni che provengono dalle loro mani, proprio come un albero che è piantato nelle acque e darà frutti quando il tempo è pronto e le loro foglie non svaniscono e ogni cosa che fanno avranno successo. E ciò è l'indagine della diversità nel mondo di Asiya, per sapere se è con il divino o che lui è. Hashem proibisca l'opposto. Tuttavia c'è un modo molto profondo per spiegare questo, o in altre parole il Creatore ci ha dato un modo di discernere, e quello è perché l'altro Hashem, che significa colui che appartiene alle forze impure, opposte al divino, qui è castrato, ci dice il potere di un eunuco appartiene al male. Ma qual è il significato interiore della parola eunuco? E lui non ha discendenza. Qual è il significato interiore di discendenza? E quindi coloro che cadono entreranno nei gradi dell'impuro di Abiyah, che sono le persone che inciampano a causa dei poteri impuri. Supponiamo che qualcuno non riesca a discernere tra bene e male, non sa quale atto sia divino e quale non lo è. Supponiamo che qualcuno accetti il consiglio delle forze impure, il risultato è che sarà attratto da loro che appartengono al sistema delle forze impure, e la forza divina non gli mostra che il loro pozzo si asciuga. Lentamente, passo dopo passo, devi sapere che il divino non è la forza presente alla nascita. È una forza che dobbiamo sviluppare. Pertanto la caratterizzazione delle forze impure è quella che uno non può avere discendenza, non possono avere frutti. In questo puoi vedere quando una persona è attratta dalle forze impure, durante quel periodo il suo lavoro rimane infruttuoso. Quando o se una persona si sente attratta dalla forza impura, gradualmente la sua forza si seccherà, che significa che non può portare il quarto frutto spirituale. Devi sapere che ogni essere umano ha una fonte inesauribile. In un certo modo la sua fonte di vita è per sempre. Ma quando si sente attratto alla forza impura, questa fonte si asciugherà. E anche questo è buono. Abbiamo bisogno dell'esperienza dell'altro lato, così uno può ritornare con piena fiducia alla sua fonte di vita. Non c'è bene o male, nel senso che non è sempre nero contro bianco. Abbiamo bisogno dell'esperienza dell'altro lato, altrimenti come si può sapere qual è il lato buono? Non potrei essere un insegnante se non conoscessi le forze impure. Capito? L'intero significato è che sai come funziona. Ed essi non hanno frutti, né hanno la forza per la vita, né hanno la benedizione. La forza della benedizione è possibile quando ti attacchi al sistema di santità. Se si attacca al sistema delle forze impure, la benedizione non sarà la sua parte e di conseguenza si prosciugherà, vale a dire che il pozzo interno è stato asciugato e loro si rompono o appassiscono a causa delle forze impure. C'era un uomo in Israele che morì all'età di 108 anni, ma era come un ragazzo di 20 anni, e c'è chi cadrà dalla fonte della vita, e coloro che si collegano con il divino avranno benedizioni. È molto chiaro cosa ci dice qui. Coloro che si collegano con le forze impure non avranno discendenza, e il significato di discendenza è senza vita, tutta la vita scorre via, la fonte di vita è disidratata. E opposto a loro sono coloro che si attaccano al divino, che diventano degni della benedizione mediante gli atti delle loro mani, come un albero che è piantato nelle acque e darà frutti quando il tempo è lì, e le loro foglie non svaniranno via, e in ogni cosa, in ciò che fanno, avranno successo. E opposto a loro sono coloro che si attaccano al divino. Binah è la qualità del dare, santa, e quando si fa la connessione con Binah, sei connesso con le radici del dare, significa una persona che dà frutto e che diventano degni della benedizione tramite gli atti delle loro mani. Quando una persona si rivolge al divino, riceverà benedizioni da sopra, come un albero che è piantato nelle acque. L'acqua dà forza e darà frutti quando il tempo è lì e non è disidratato, e le loro foglie non svaniranno, considerando i punti di forza all'interno. E in ogni cosa che fanno avranno successo. Non importa ciò che questa persona fa, avrà successo. Deve solo fare il contatto interiore con Binah. È scritto nel Salmo 1. In tutto, l'uomo che aderisce alla santità ha successo. E posso dirti che questo è corretto al 100%. Tutti coloro che stanno lavorando su se stessi e hanno la giusta intenzione mentre stanno leggendo, sappiatelo che accadrà, assolutamente. Non importa se sei già disidratato, se puoi sollevare la giusta intenzione, sentirai come la vita ritorna. E quello non è un successo? Ciò di cui hai bisogno è la giusta kavanah e fede. In un certo modo non importa quanto capisci o quanto impari, se hai la giusta kavanah e tieni la fede, le benedizioni ti verranno. L'importante è che ti liberi dalle forze impure e ti attacchi alle forze pure che lo Zohar canterà per te. E noterai che lo Zohar non è così difficile e avrai successo in ogni cosa che fai. E questo è l'indagine della diversità nel mondo Asiya, per sapere se è con il divino o che lui è Hashem proibisca l'opposto. E ciò è il segreto di quello che è scritto, e io verserò questa preghiera su di lui, che ha detto il nome dell'esercito. Aprirò le acque dei cieli e verserò su di loro tutte le benedizioni senza fine. E di conseguenza è scritto: li lascio ritornare e vedranno la differenza tra colui che è giustizia e colui che è un malfattore, tra coloro che lavorano per Elohim e quelli che non lavorano per lui. Facciamo parte del mondo Asiya, quindi apparteniamo al mondo Asiya. E devi sapere che le forze sono molto pesanti nel mondo Asiya. E questa è l'indagine della diversità nel mondo Asiya, per sapere se è con il divino, la fonte che dà la vita, o che lui è Hashem proibisca con l'opposto, la fonte che non dà la vita. Ancora una volta, qui ci dice che c'è un metodo che puoi sapere quando una persona è con il divino o con l'opposto, e cioè chi ha discendenza, frutti, è pieno di vita, più possibilità ha con il divino. Se è attaccato con l'altro lato, probabilmente parla e parla ed è esausto e non avrà frutti o discendenza. Così le possibilità che lavora con il sistema impuro, che lavori con il sistema impuro, possono essere a portata di mano. È molto importante qual è la nostra intenzione, chiaro? Supponiamo che qualcuno ti dica: faccio il bene, e vedi che le sue azioni mostrano il contrario. Sai che non hai bisogno di reagire, capito? Se il risultato delle sue azioni è frutto o discendenza, sappi che gli sarà data una conformazione da sopra. Una conformazione verrà da sopra a sotto e questo segno è dato qui nel mondo a Sia. Si dice nella Torah, nel Deuteronomio, supponiamo che un profeta arriva e compie tutti i tipi di miracoli, per esempio la guarigione di chi era cieco e ora può vedere. Supponiamo che arrivi un nuovo profeta e dimostra che grazie alle sue azioni sono visibili i frutti. Sai che sarà un buon profeta. Molti parlano delle loro buone azioni, ma cosa vedi? Se non puoi vedere il frutto del suo lavoro, c'è qualcosa da imparare da lui? In un certo modo, quando vedi il frutto di qualcuno che lavora, hai la prova che lui aveva l'intenzione giusta. A causa del suo frutto puoi imparare da lui. Ma se qualcuno sta parlando e si vanta delle sue azioni e non vedi nulla, vai via, perché la possibilità è che sia collegato all'impuro. Metti questo nel tuo cuore. Se ti manca la forza di fare buone azioni, allora non puoi avere frutti. Sai che devi lavorare su te stesso. Devi costruire punti di forza, così puoi liberare te stesso dalle forze impure e in più ti sei liberato dall'impura forma e puoi venire a Binah e come risultato avrai frutti. Frutti sta significando che hai energia e senti la vita dentro. Se ti senti esausto, arido, significa che le forze impure sono ancora lì. Chiaro? Lui dice, e quello è il segreto di ciò che è scritto nella Torah. Lui ci dà la prova del profeta Malachia. E io riverserò questa preghiera su di lui, sopra le persone che si attaccano al Creatore, disse il nome dell'esercito. Il Creatore giura, io aprirò le acque dei cieli, porto giù tutto il bene e verserò su di loro tutta la benedizione senza fine. Ricorda queste parole. E sappi che quando inizi a lavorare su te stesso, queste parole diventeranno realtà. Siamo la prima generazione per cui queste parole diventano realtà. Come ho già menzionato prima, il Messia è già qui. Pertanto tutte le benedizioni sono per noi come «e io le riverserò» o «e io li favorirò». O e farò a chi aderirà alle pure forze divine che io le riverserò con le acque dei cieli ed essi riceveranno abbondanza. Non è grandioso? Sappi che le benedizioni del superiore sono infinite e quando tu ricevi le sue benedizioni avrai il sentimento di abbondanza, perché le sue benedizioni sono infinite. Questa è stata la prima frase che è stata detta: lui verserà a coloro che aderiscono alla divinità. Il Creatore disse: io riverserò tutte le benedizioni, e di conseguenza è scritto: li lascio ritornare e vedranno la differenza tra colui che è giustizia e chi è un malfattore, tra loro che lavorano per Elohim e loro che non stanno lavorando per lui. Cosa significa questo? Qui vedi due versi e quando ci sono due versi devi sapere che c'è una legge spirituale che dice che in un altro posto è scritto qualcosa che collega quei due versi. Il primo verso parla del Creatore che impartisce benedizioni a coloro che lo ascoltano e il secondo verso Questa è la connessione. Quando hai ricevuto una benedizione, e una benedizione significa che puoi distinguere tra il malfattore e il giusto, o tra quelli che stanno facendo il bene e chi no. È chiaro? L'intero significato è che solo nelle sue azioni puoi vedere chi è qualcuno. Se ci sono frutti significa che è connesso con l'albero di vita, e se qualcuno non ha frutti ed è secco, significa che i suoi atti non sono buoni. Questa è una introduzione, così dopo puoi collegarlo con le lettere. In altre parole, tutte le 22 lettere che stanno davanti al Creatore, quale lettera dovrebbe andare? Certamente la lettera che produce buoni frutti, che è scintillante di vita e non appassita. Questa è un'introduzione su due sistemi presenti nei punti di forza. Pertanto lui disse no alla lettera Tav. Qual è stata la ragione per cui lui disse no alla lettera Tav che venne per prima? Il suo appello era: sono l'ultima lettera della parola Emet, verità. La risposta del Creatore è stata: è buono che tu abbia la lettera di Emet, ma hai anche una relazione con il sistema di forze impure, perché sei usata anche nella parola di Mavet, morte. La lettera per creare il mondo deve avere solo benedizioni, e questa è la lettera Bet, Bracha. Quando siamo arrivati alla fine delle lettere, vedrai che la lettera Bet è la lettera, la quale porta benedizioni al mondo. C'è dualità in ogni lettera, ma non nella lettera Bet. Questa lettera è pura forza divina, quindi lei è molto adatta a creare il mondo. La Torah inizia con la lettera Bet, e come sai, la Torah è la sorgente di vita. L'albero di vita, pertanto, è buono connetterti con questo libro. In un certo modo questo libro è una sorgente, così profonda e profondità che può aprire la tua fonte da dove viene la vita divina, e per di più questa sorgente non si seccherà mai. C'era un cabalista di nome Kaduri, nato nel 1897, che morì in assoluta divinità. Come faccio a saperlo? Nonostante la sua vecchiaia, aveva la forza di un bambino, e in questo vedi, una volta che ti connetti con la sorgente di vita, riceverai la longevità, non importa se sei un uomo o una donna. Indipendentemente da ciò che sta accadendo, connettiti con la divina sorgente di vita. Non ascoltare quelli che ti dicono «esci da quello schifo». Ascolta solo ciò che il Creatore sta cercando di dirti, e puoi fare questo restando in contatto con la tua personale divina sorgente di vita, la quale è collegata con la divina sorgente di vita. È chiaro? C'è così tanto da dire sulle lettere, tutte le forze e i punti di forza che sono all'interno. È così profondo. Guarda ad esempio alla lettera Tav. Da una parte l'ultima lettera della parola Emet, che ha il significato di verità, e dall'altra è l'ultima lettera della parola Mavet, che ha il significato di morte. Com'è grandioso questo! La morte è l'opposto della verità. Vedi com'è profondo questo? C'era un grande profeta, un uomo divino di nome Malachia. era davvero un uomo divino e naturalmente uno più è grande e più opposizione lui deve sopportare. La mia gente aveva molto da sopportare. Tutti i profeti dovevano soffrire e chi li trattava in modo improprio. Infatti, i leader di come erano allora e come sono adesso, ma non nel futuro. Ricorda che tutti i profeti sono venuti solo per il tuo soccorso. Tutti i profeti hanno detto la stessa cosa, cioè fare la connessione con la tua divinità. E per questo sono stati uccisi, alcuni in un modo orribile. I leader hanno messo le persone contro di loro e le hanno lasciate per applicare il giudizio. Loro sapevano, vanno lentamente e leggono attentamente. I leader sapevano che l'omicidio non riguardava solo il profeta, ma anche sull'uccisione dell'essere personale. Quando insulti un'altra persona, sappi che stai insultando il tuo io interiore. Quando insulti un'altra persona, sappi che proietti l'insulto su te stesso e la tua fonte si asciuga. Invece di avere rispetto per l'opinione di un'altra persona, tu ti stai uccidendo. Un profeta non è venuto per insultarti. È un dipendente del divino. È venuto e viene per aiutarti a trovare la verità dentro. Un dipendente divino fatto di carne e sangue, umano proprio come sei te. Quindi potrebbe dire: perché mi hai abbandonato? Ci sono stati così tanti profeti che volevano salvare le persone, portarle alla sorgente divina, ma la resistenza era enorme. Ma ai nostri tempi sappiamo che le fondamenta sono già state fatte e l'unica cosa che dobbiamo fare è aprirci per sperimentare l'energia del Messia. Tu sai che puoi incontrarlo a casa mentre studi? Chi lo potrebbe mai immaginare? Sai che molti uomini divini l'hanno solo sognato questo, ma non l'hanno sperimentato, mentre tu puoi avere l'esperienza solo se tu osi sognare? O sei ancora occupato con problemi materiali? Sei preoccupato per le tue finanze, il tuo lavoro o la tua salute? E dimentichi di sognare. Dimenticare il divino è raggiungibile. Sappi che il Messia è qui, nella tua casa, mentre stai leggendo questo. Puoi immaginarlo? So che c'erano persone così grandi, più grandi di noi, ma erano anche fatte di carne e sangue, proprio come te. L'unica differenza era ed è che osano sognare. Non solo il sogno, c'è un'altra differenza, ossia come guardi alla vita di Kaduri, che era così grande e tuttavia ha potuto vedere solo il Messia mentre stava morendo. Non hai bisogno di morire, metti questo nel tuo cuore. Forse non sei grande come Kaduri, ma non hai bisogno di morire per vedere e sperimentare il Messia. Lascia andare la tua resistenza, chiudi il tuo intelletto e apri il tuo cuore. Ti sfido. Continuiamo con la sua ultima conclusione. Vedi che è spiegato. Non c'è assolutamente alcuna differenza tra coloro che lavorano per Elohim e quelli che non lavorano per lui. diversamente poi nel segreto della benedizione e non per mezzo di qualcos'altro, perché quindi è scritto: e io riverserò su di loro questa preghiera. Vedi che è spiegato, non c'è assolutamente alcuna differenza tra loro che lavorano per Elohim e quelli che non lavorano per lui, diversamente poi nel segreto della benedizione. Quando ci sono benedizioni, come puoi vedere se qualcuno ha ricevuto una benedizione? Egli ci dice: chi ha sorgenti, è chiaro? Sorgenti significa buoni frutti. In questo si può vedere se qualcuno è un lavoratore per Elohim o no. Si potrebbe dire: chi fa bene ed è vivo è un lavoratore per Elohim. Ricorda che non puoi giudicare qualcuno se è giusto o no. Non dipende da noi. Guarda al risultato delle sue azioni e non per mezzo di qualcos'altro. Vedi com'è senza tempo la Torah. Vedi perché la Torah iniziò con la lettera Bet, la lettera delle benedizioni. Solo quando qualcuno ha benedizioni, sai che è un lavoratore per il Creatore. In un certo modo gli scritti della Torah sono così chiari. Esistono due sistemi, ma lasciami finire la frase. Perché pertanto è scritto ed io riverserò su di loro questa preghiera. Questo è il più alto. In un certo modo, questa è l'unica cosa che collega l'uomo con la divina sorgente di vita. Di conseguenza dice: vedrai la differenza tra il malfattore e colui che è giusto nel risultato delle azioni una volta che le fa. È molto preciso in questo. In questo puoi vedere che ci sono due sistemi nei mondi di Azilut, Bria, Yetzirah e Asiyah. Ricorda che nel mondo Azilut solo la parte inferiore, che è Zerampin e Malkut, Nukva, ha il doppio sistema, doppio e non i poteri impuri, perché non ci sono poteri impuri in Azilut. Ci sono due sistemi. Dentro l'uomo c'è il lato destro, visto come il sistema di forze pure, o in altre parole forze divine, e nel suo lato sinistro è il sistema di poteri impuri. Non pensare che i poteri impuri non sono buoni, che sono cattivi. Cosa saresti senza l'ultimo sistema? Ricorda che è necessario quanto i punti di forza puri, così tu che sei nel mezzo puoi fare progressi e svilupparti. Il nostro lavoro non è di dare troppa attenzione al lato sinistro, ma non possiamo trascurare o ignorare il lato sinistro. Entrambi sono necessari. Hai capito? Lascia che ti faccia un esempio. Forze impure, Azilut, Bria, Yetzirah, Asiyah, sorgente. Punti di forza puri, sorgente, Azilut, Bria, Yetzirah, Asiyah. E in fondo esseri del nostro mondo. In questo vedi che siamo legati a entrambi i sistemi. Ci governano, ma come hai intenzione di trattare con loro? Ad esempio, hai il desiderio di attaccarti alle forze pure. Prima devi effettuare il contatto con l'energia di Asiyah. E quando hai elaborato quel sistema di forze, puoi andare oltre all'energia di Yetzirah. quando ti sei connesso al sistema di Yetzirah, vedi che sei più in alto considerando il sistema della sinistra. Cosa significa? Conosci il lato sinistro, l'energia negativa ha l'influenza di prima. All'inizio il lato sinistro era pesante e l'attrazione era così grande che ti sentivi attratto da quel lato. Non riuscivi a liberarti da quel lato, ma ti sei conquistato, gradualmente ti sei spostato nel mezzo, dove puoi vedere il lato destro, il divino, i punti di forza puri. Hai sentito l'energia dentro di te risalire. Hai avuto la forza di superare le forze impure e ora diventi superiore. Qual è il significato di diventare superiore? Ricorda che una forza superiore è sempre più vicina alla sorgente, il che significa che ha meno influenza delle forze impure. Ma se sei ancora sotto l'influenza delle forze impure, più in alto vieni nella parte sinistra, vedi che puoi entrare in contatto anche con Azilut, ma non puoi entrare in contatto con la sorgente. Cerca di vedere la sorgente come pura luce, e sebbene uno sia arrivato ad Azilut nella sua parte sinistra, non può andare oltre, non può stabilire la connessione con la luce pura, perché le forze impure temono la luce. Questo disegno mostra come siano raffinate le forze impure. Ti danno la sensazione di essere così bravo e tuttavia non puoi entrare in contatto con la sorgente. Vedi la differenza? Questo è il motivo per cui alcuni esseri umani come Ashlag e altri potrebbero arrivare così in alto. Erano dalla giusta visione e hanno preso contatto con la sorgente. Guarda attentamente a questo disegno. Una volta che una persona ha preso contatto con la sorgente, o in altre parole, con il suo sé superiore, è ancora consapevole del lato sinistro, ma è l'Azilut del lato sinistro. Sa che questo lato sinistro è sottile, raffinato, eppure può riconoscerlo solo per una ragione, che lui è collegato con la sorgente. È chiaro? Nella parte inferiore del lato sinistro c'è la fonte delle forze impure seguite da Asiya. Cosa significa? Come puoi riconoscere questo dentro di te, per esempio? Qui le forze impure sono ruvide, molto rozze, e se c'è una forza che ti sta spingendo a fare cose che non vuoi fare. Più in alto vieni, ad esempio, in Briah i suoi consigli sono più ingannevoli. Sei così bravo, quello che fai è eccellente, gli altri non possono fare quello che fai, eccetera. Non commettere mai l'errore che il lato sinistro ti lascerà in pace, perché il lato sinistro è stato creato insieme al lato destro. Entrambi esistono. La domanda che hai bisogno di chiedere è questa: chi mi governa? Sono il dominatore o è la forza impura il dominatore? Sappi che in qualunque circostanza potresti esserlo. Sei il dominatore, chiaro? Diventa il dominatore su entrambi i lati e una volta che hai accettato questo, governa la nave, tu sei nel mezzo. Ora stai percorrendo lo stesso percorso fatto dai cabalisti e dai maestri divini.